Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Cedetelo passo. Cedetelo passo tu? No. E a te cedere, io sono cavaliere. E io che sono? Le hai viste le schiere mie? O non hai occhi? Ne ho almeno quanto tu hai la lingua. Allora è lo cervello che ti ammanca. Ma forse. Ma non lo cove. A piedi o a cavallo? No, no, cavallo no. A piedi. Lo nome mio est Brancaleone da Norcia. Io sono Teofilatto dei Leonzi, famiglia bizantina discendente da Nicefalo I. Ti vedo e ti piango. Branca, branca, branca, seo, seo, seo. Noi potremmo ricomporre la storia del nostro paese, ma anche la storia delle ultime ore, se non degli ultimi giorni, in questo contrasto tra due cavalieri, tra Brancaleone da Norcia e l'altro cavaliere, un po' blasé, con la remoscia, di nobili lignaggi, che si incontrano e nessuno vuol cedere il passo all'altro. E nessuno mai cederà il passo all'altro in questa mattinata in cui vorremmo parlare dell'Italia vista da Mario Monicelli. Giuseppe Sanzonna, buongiorno. Buongiorno. Premetto subito, ammesso ci sia bisogno, per chi mi conosce, no, di sicuro che non sarà una trasmissione dedicata al piagnisteo lacrimoso che sta facendo la televisione e i giornali da un giorno circa sulla morte di Mario Monicelli. Non ci interessa riflettere, sapere, decidere, dissertare su come sia morto. Il maestro non c'è più, ma di lui rimane comunque una profonda, capillare, intelligente e soprattutto molto condivisa da noi, lettura di noi, dei nostri vizi, delle nostre virtù. Parliamo di Brancaleone, che è il film che Monicelli riconosceva più come un suo film. Paradossale, noi abbiamo già parlato di questo film. A un certo punto la commedia all'italiana gettò un occhio all'indietro. Tutta la zona, l'area del Viterbese, divenne improvvisamente la rappresentazione più fulgida di una sorta di zona liminare, fuori del tempo e fuori da ogni collocazione storica, a metà tra la fine del Medioevo, il Rinascimento, non si capisce bene, in cui si parla una lingua che non è mai esistita, che è il viterbese burino. Viterbo ebbe il momento più fulgido della sua esistenza, in cui si chiamò Viterbori. Tutto nacque dalle riletture del Decameron, dei racconti di Canterbury che fece Pasolini, cui abbiamo parlato un paio di giorni fa, ma Monicelli la prende e diventa Brancaleone. E quello che affascina di questo film è che contiene in sé lo spirito di un po' di tutto il cinema monicelliano, ovvero raccontare l'Italia attraverso l'impresa di un gruppo mal assestato, mal congegnato, di persone che tentano un'impresa più grande di loro. Se vuoi, la storia d'Italia, la visione che Monicelli aveva dell'Italia era proprio questa, e comunque riescono ad arrivarci alla fine. In fondo lui considerava che i Cavalieri di Re Artù fossero simili alla sua triste, malmessa alanfordiana armata Brancaleone, solo che avevano più denaro, più fasto, più glamour. Qui abbiamo visto lo scontro con il blasé Gian Maria Volonté e Teofilatto, quindi si scontrano. Invece c'è Gassman, che è il Milles Gloriosus, finalmente messo in un contesto teatrale dove può sbracare, un po' pupo, un po' samurai, un po' zozzone, con gli costumi meravigliosi di Gherardi e con questo pastiche che è un po' norciano, un po' come dicevi tu, Peter. Lui fa seriamente quello che lui avrebbe voluto sempre fare, il grande attore drammatico, però sotto sotto per farlo deve essere sdoganato attraverso la chiave comica. Parodizzava se stesso, prendeva quindi in era giro se stesso totalmente in questo film. Una sorta di Kurosawa calato in questa Italia centrale, in questo lungo viaggio, in questa impresa in cui ci sono poi tutti i caratteristi del cinema italiano, da Capannelli. Insomma, ci sarà tutta questa gloriosa impresa. E il racconto dell'Italia, il racconto della sua impossibilità, della sua inadeguatezza, qui reagisce col bricolare, col bricolage, con l'inventare qualcosa di impossibile, col legno, con le assi, con la propria sporcizia trascinata attraverso il proprio percorso. Allora, è sin troppo esaurita e consunta la maniera di celebrare gli italiani attraverso la gloria del peggiore dei loro vizi, l'approssimazione, il pressapochismo, l'averci le pezze al culo e non volerlo far vedere, anzi rendere di questa propria condizione miserrima strumento di gloria e di orgoglio. i due punti, i due estremi che si toccano alla fine. E gli italiani sono gli italiani su cui tutti sorridono e si danno di gomito, ma sono anche gli italiani capaci di trasformare, di uscire da questi mucchi di immondizia sempre in maniera fantasiosa e gloriosa. Quello che è il nostro vizio, il nostro limite, diventa anche oggi la massima possibilità di espanderci. Però Brancaleone non è abietto, cioè non è sordi Gassman in questo caso, c'è un fondo don chisciottesco, c'è un fondo buono, lui è roboante e inadeguato, ma ha veramente, è animato da ideali cavallereschi nel fondo. Certo, poi si scontra col grottesco di avere questa armata di cenci che dietro di sé, però c'è il fondo etico, c'è e spesso ritornerà in Monicelli anche un film come I Compagni, no? Nella storia delle lotte operaie della fine dell'Ottocento, c'è l'impresa più grande che viene tentata non con la furbizia meschina, ma proprio con lo slancio. Poi c'è l'inadeguatezza dei mezzi, dalla povertà di un paese un po' malmesso, ma non è questo. Adesso, non per spirito di polemica, ma è bene ricordare questa lettura che Monicelli faceva degli italiani, molto realistica, molto appassionata ma anche molto disincantata, fatta con amore ma fatta anche con il rigore di un osservatore senza filtri alla nostra realtà. Ieri era l'oggetto del più lacrimoso, generalizzato e consociativo panegirico coccodrillesco, ma in passato aveva delle voci molto critiche, veniva considerato un po' una lettura reazionaria del nostro paese. Sì, appunto Moretti era molto aggressivo nei confronti della commedia italiana, dei vecchi padri della commedia italiana, come sentiamo in questo frammento. Che rappresentava in questo caso un po' il Gian Maria Volonté, anche nella pretesa populista e proletaria. Era il cavaliere di nobile lignaggio, di cultura, e si contrapponeva al Brancaleone, cioè no, siamo un'altra cosa. Sì, in realtà nell'intervista che famosa che fecero con moderata da Arbasino, c'era, era più gruppettaro, aveva anche questa parlata un po' sbiascicata, un po' ascicesca, nel contrapporsi invece a Monicelli, che era fresco di barbiere, poi vecchio stampo col baffetto. C'era un po' una contrapposizione fra due mondi, anche quello. Oddio, mondi che vediamo ancora rappresentati, basta vedere i telegiornali di ieri sera. Il mondo biascicante e gruppettaro sembra essere in presente risorto alle stesse ceneri, con i rappresentanti storici di quel mondo che danno il panino con la frittata ai loro pargoli che vanno nelle piazze a far quello che facevano i loro genitori. Viviamo in un eterno 68, dal 68. Sentiamo Nanni Moretti che pensava negli anni 70 di Monicelli. Adesso si sta parlando, da un anno, di un film che tu hai fatto, che nessuno ha visto, pochissimi hanno visto. Hai avuto la fortuna che ne hanno parlato tutti quanti. Se ne è parlato in televisione, adesso si darà in televisione. Ma guarda che il tuo film è un film grazioso, eccetera, ma niente di più. Invece si è creata questa cosa per cui tu adesso sei l'esponente dei registi, la nuova regia italiana, la nuova vaga italiana. Non sei, no, non è vero. Sei un buon regista che si è fatto... Le recensioni che hanno fatto, sei stato il tuo press agent più straordinario che ci sia fra la gioventù italiana dai 40 anni in giù. Credimi a me. Allora io dico, quasi come quindi diciamo la verità, che il film poi sia grazioso, siamo d'accordo, ma ti assicuro che è molto meno di quello che tu credi. Ma che è di quello che io credo? Non sappiamo cosa crede. Non sappiamo cosa crede. Non sappiamo cosa c'è. In realtà Moretti non gli è stato dato modo di dire nulla però a questa intervista. Possiamo far sentire tutta la trasmissione, però prima Moretti l'aveva attaccato su Un borghese piccolo piccolo, giudicandolo reazionario, un film fascista. È un film che però questo anatema se l'è portato fino ad oggi, perché è il film di cui si parla meno di sordi. Però definirlo reazionario è di una miopia, secondo me è di una miopia assoluta. Poi c'è la reazione biliosa di Monicelli, che lo accusa di essere in fondo non del tutto a torto, comunque un continuatore di una certa forma di commedia, di costume, perché fondamentalmente Moretti si presentava come un comico, certo con tutte le sue sfumature e le sue caratteristiche, però diverse da Monicelli. Di certo Un borghese piccolo piccolo è un film livido, inaccettabile, che ancora ferisce come un rasoio aperto, come il Voizek ancora oggi. Non è un film elaborato, che non è affatto elaborato. Morto Alberto Sordi, quasi nessuno ne ha parlato e tuttora quasi nessuno ne parla. Strappa la maschera di Alberto Sordi al suo ruolo di cinico, di, anche se vuoi, in parte consolatorio, senz'altro, sicuramente l'italiano si è identificato e si è crogiolato in Alberto Sordi, però lì viene restituito a tutto il suo orrore, alla sua ambiguità, il personaggio. Anche... Per paradosso, viviamo nell'Italia dei delitti consumati nelle villette bifamiliari, delle ragazze scomparse, delle signore che ancora dicono in televisione questa era una provincia tanto tranquilla, non si capisce perché è sparita questa ragazza. Sì. Però il borghese piccolo piccolo, che era l'anticipazione del genio orribile che cova in ogni piccolo borghese, è un film ancora, detto, toccato dall'anatema. Sì, sì, poi c'è la foglia dei vicini di casa appena scompare. Adesso quest'ultima ragazza che è scomparsa subito a parlare, a cercare di descrivere, pronti a mettere il faccione nel video, no? Però invece il film è pieno di tutti i toni e le sfumature grottesche di Sordi, compresa quella della famosa scena dell'investitura della massoneria. 800240024, il tema mi sembra che sia chiaro. Parliamo di noi, parliamo degli italiani, parliamo di quello che ci ricordiamo, che è il punto di vista di Mario Monicelli, dei nostri difetti e delle nostre virtù. Dio po', non gli hai ancora parlato, eh? E invece sì, abbiamo fatto una lunga chiacchierata alla faccia tua. E lui che ha detto? Ha detto che ci pensa lui. E secondo te è sicuro? Sì, insomma, che il ragionier Mario Vivaldi può considerarsi uno dei nostri. Non sei contenta? Vabbè, ma che altro ti ha detto? Sentiamo. Che mi vuole bene. Sì, proprio così mi ha detto, in faccia. Giovanni, tu lo sai che ti voglio bene. Ehi, beato te. Beato io che? Che tu dopo 20 anni ancora ci credi a quello. Ma che ne sai tu? Che ne sai che non sai un cazzo? Ha detto che ci pensa lui e che mi aiuta. Tu non puoi concepire uno che vuole bene un altro e che lo aiuti disinteressatamente. Ciò che più dà fastidio è la consumazione di questo consueto dramma familiare. Il padre e la madre parlano accorati del destino del proprio figlio. Sanno che non basta il fatto che sia diplomato, sia un bravo ragazzo, con il suo bravo impermeabilino piegato sul braccio. Non basta quello, serve qualcosa. Qualcosa che va sgraffignato con le unghie, perché il borghese piccolo piccolo non può entrare nel giro di quelli che possono. E quindi l'unica porta aperta, l'unica fessura aperta sul probabile futuro tranquillo del figlio è lo schifoso capufficio che si gratta la forfora e la raccoglie, la prende in mano e la ostenta, la scaglia, la crosta di forfora come se fosse un trofeo, che lo può iniziare alla massoneria. Sì, un cinema fisiologico, come dicevi tu, si scrosta davanti con lo strepitoso Romolo Valli. Loro vivono questo dialogo consumato fra una bolsa strepitosa, Shelley Winters, e Sordi con questo baffetto, in questo tinello che tra l'altro dà sulla sopraelevata del Pigneto, set futuro poi di Fantozzi, e decidono appunto il futuro del sonnacchioso e appena scomparso attore Crocitti, che tra l'altro sarà questo figlio che loro a tutti i costi devono piazzare per continuare l'eterna corsa del topo del piccolo borghese. 800240024, mi piacerebbe, quanto vi vedete voi in questi film, quanto scoprite certi aspetti fastidiosi, pesanti, sgradevoli da ammettere di noi stessi, la nostra esperienza, della nostra famiglia, delle difficoltà che abbiamo attraversato, perché non era poi molto facile rappresentarli in quel tempo con questa crudezza, con questa minuziosa dovizia di particolari. Ma ragioni un po', che ci sto a fare io a questo mondo? Ma come che ci sto a fare io a questo mondo? Ma allora tu della vita non hai capito niente. Ma scusami, gli alberi si sono mai domandati perché stanno a questo mondo? No. E allora? Eppure ci sono e sono belli, fronzuti. Guarda come sono fronzuti. Le margherite si sono mai domandate perché stanno a questo mondo? No. Le bestie, i mulcini, le galline, le capre, le vacche, i cavalli, le zanzare. Eppure le zanzare ci portano la malaria, eppure ci sono. Si sono mai domandate perché stanno a questo mondo? E chi lo sa? Come chi lo sa? Guarda me. Per esempio, io mi sono mai domandata perché sto a questo mondo? Beh, se lo dovrebbe domandare. Nessuno se lo domanda perché sta a questo mondo. Nemmeno il signor commissario se lo domanda. E te lo vuoi domandare proprio tu? Mannaggia! Siamo nel 1953, cerchiamo per quanto possibile, tolta la digressione del borghese piccolo piccolo, seguire una cronologia. Un occhio attento attraverso la nostra evoluzione, il nostro scoprirci diversi da quelli che immaginavamo. Totò e Carolina. Questa è la prima regia da solista di Monicelli. Qui si contraddice pienamente Moretti, perché questo è un film tutt'altro che consolatorio, anzi fu bersagliato dall'allora integerrimo Scelba e da Oscar Luigi Scalfaro, che volle vendicarsi di Totò, che lo aveva sfidato a duello per il suo famoso Copriti svergognata di qualche tempo prima. E perché fu censurato? Perché non era ammissibile che un poliziotto come Totò, innanzitutto, fosse incarnato da Totò e che poi decidesse di avanzare di grado solo per poter avere più soldi alla fine del mese, che vivesse in una casupola della borgata normana. E poi c'erano i comunisti Bonaccioni, c'era lui che giocava all'otto, c'erano tutta una serie di cose. Quindi uscì 2 anni dopo, bersagliato da tagli di censura. Poi c'è questo rapporto meraviglioso fra Totò, che salva questa ragazza madre, che è la strepitosa Anna Maria Ferrero, e la porta, alla fine la adotterà. Quindi cioè, tutto questo fu premesso da una scritta all'inizio del film, dice, il fatto che sia Totò il poliziotto trascina tutto in un mondo di fantasia, invece era realissimo questo film. Sentiamo Mauro. Mauro, buongiorno, il primo ascoltatore. Sì, buongiorno. Beh, innanzitutto io credo che a Moretti sia sfuggito la chiave di un Borghese piccolo piccolo, che era il finale. Il finale in cui il giustiziere fascistoide, per dirla a Moretti, quindi il Moretti ortodosso dell'epoca, diventa, viene innescato e diventa killer seriale. Quella praticamente è la pennellata cupa. Che è la vera profezia di quel film. Che è la chiave, che è la chiave, è la pennellata monicelliana che spiega, che dà il senso poi al film stesso. E ovviamente al Moretti ortodosso dell'epoca sfuggì, probabilmente se gli si chiedesse adesso qualcosa a riguardo avrebbe un differente. Ma io in realtà volevo essere molto breve e raccontare del mio amore per il cinema. Io quando sono bambino passavo settimane nei cineclub a vedere terrificanti retrospettive di tutti gli oschi di questo mondo, visioni multiple di Tamburo di Latta, però il sabato era sacrale, il sabato ci si vedeva con alcuni amici e si sezionavano i film della meravigliosa commedia italiana, che aveva amore. E finché non arrivò Veltroni, devo dire, una delle cose buone che ha fatto, con le famose cassette dell'Unità che ce li portò in casa, perché non era mica tanto facile averli prima in maniera di uso così stretto e casalingo. E allora, per quello che ad esempio, tanto per citare un film, ovviamente Monicelli era tra questi, i soliti ignoti ad esempio non lo avevamo totalmente sezionati, utilizzavamo e rubavamo questi tormentoni, il Cerè ad esempio, che Peppe Pantera dice ai ragazzi romani che lo guardano in maniera un po' strana quando lui sta cercando di conquistare Calagravina, o l'escludo al priore di Totò Dante Cruciani, insomma si giocava con questi calembour e per me, cioè, Monicelli che muore è un po' retoricamente è parte di me che muore, perché c'è, cioè, tutto quel patrimonio, quei giochi linguistici, quelle cose che noi usavamo e su cui facevamo fast forward e rewind in continuazione sui vecchi VHS, ci ha segnato, almeno mi ha segnato, ecco, profondamente. Beh, adesso diciamo, detto per virgolette, il punto sarà che riuscirà tutto Monicelli in DVD, in Blu-ray, riletto, ripulito, riconfermato, quindi queste icone del passato, ammesso ci sia ancora qualcuno in grado come lei di poterle interpretare, leggere e scomporre, comunque rimarranno nei nostri archivi, i vecchi VHS ormai sono negli scatoloni, nelle cantine regalati o per qualcuno ancora in cellofanati ai tempi in cui uscivano inserti e allegati all'Unità, per altri ci sarà modo di ragionare su quello che erano gli italiani. Boni, state buoni. Quite. Non si fuma, ragazzi. Senti un po', sei di servizio qui te? Me pare. Romano, eh? Perché? Perché l'italiano in fanteria e il romano in fureria. Voglio di certo. Per la cronaca sto posto non l'ho scelto io. Io uso obbedir tacendo e tacendo morir. Va bene, lascia andare. Comunque, dico, ci potrebbe essere vero qualcuno, con rispetto parlando, che malgrado l'apparenza è contrario, c'ha la salute minata e non se la sente mica. Allora, vero, un rinvio, poi sdebitandosi, si intende. Sarebbe anche un'opera di umanità. Ma che dovrei dire io? Il romano abita a Rollato e il milanese riformato. Va bene, come non detto. Vieni qua, aspetta. Sì. Tu pensa a questo incipit della Grande Guerra, quanto letto con gli occhi dell'attualità sia perfettamente calzante a un nostro immancabile, insanabile divario fra due anime. Questi diventeranno due grandi eroi perché erano due grandi vigliacchi e la loro vigliaccheria darà più senso al loro eroismo finale. Inizia nell'ospedale militare in cui Alberto Sordi, infermiere, imbucato, imboscato, l'ospedale militare statale millanta di poter aiutare Gassman a non andare a combattere, non andare in guerra. Sì, Gassman, ci andranno tutti e due, infatti. Andranno tutti e due e periranno da eroe Gassman, perché appunto col suo fisico reinventato da Monicelli nei soliti ignoti, appunto Pepper Pantera, lui aveva questo fisico da bello e cattivo, reinventato, gli fu abbassata la fronte, lo fu ingoffito, insomma. E in questo film lui poi si lancia rilancerà verso un eroismo autentico. Invece Sordi sarà proprio fino in fondo, e questa è la finezza, la sottigliezza di Monicelli, eroe suo malgrado. Io non voglio morire, sono un vigliacco, lo dice fino all'ultimo, fino davanti al plotone di esecuzione. Questa è una sottigliezza, non è consolatoria, secondo me, è una sfumatura molto acuta di Monicelli. 800240024, aiutateci a tracciare la storia e la profonda anima di noi italiani, perlomeno come la vide il maestro Monicelli. A tra un istante, dopo le informazioni dalla borsa. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Come già che hai detto che ti chiami? Gesummina. Ma cosa mi conti, che nome è? È il nome di Gesù. Ma Gesù era un uomo. Non era né uomo né femmina, babbalone. Era uno che comandava tutti. Oh, va là, terra da pepe, terra nera. Niura è chissà di terra che non ci sta mai soli. Dalle nostre parti invece è tutto verde, bianco e rosso. Ah sì, e allora che cosa siete venuti a fare? Ma lo sai come va male il Piemonte da quando siete arrivati voi altri siciliani? Mio padre invece dice che è la Sicilia che va male da quando siete arrivati voi altri piemontesi. Ehi, oh, va là, va là. Ehi, 800240024, stiamo parlando degli italiani e dell'Italia vista da Mario Monicelli, qua siamo in un film degli anni 60, il 63, I Compagni, che racconta l'inizio delle prime lotte operaie, dell'idea di socialismo che nasce a Torino fino all'Ottocento, vita di fabbrica. Giuseppe Sanzonna. Ah, questo è un film strepitoso, qui c'è un Mastroianni che fa l'ideologo e che trascina questi operai a lottare per passare dalle 14 alle 13 ore di lavoro. In realtà fu una invenzione di sceneggiatura, loro lavoravano molte più ore, gli operai di fine 800, sono gli stessi operai che verranno presi a fucilate da Bava Beccaris, dal generale Bava Beccaris. Ottenne una nomination agli Oscar per questa sceneggiatura originale, sì, del film. E invece non fu molto accettato dalla sinistra perché parlava di lotte vecchie. Invece Monicelli voleva parlare proprio delle lotte essenziali di quegli anni. Ci sono delle finezze di regia che vorrei sottolineare. Nel finale, quando appunto l'esercito spara sugli operai e muore questo ragazzo, un giovane operaio, c'è un'assenza di retorica assoluta, cioè assenza di musica, il ragazzo muore in campo lungo, sono tocchi leggerissimi, e poi nel finale c'è un dialogo fra due operai innamorati, Renato Salvatori e una donna innamorati l'uno dell'altra, è un dialogo d'amore, lui lo copre col rumore delle rotaie del treno, c'è una sottigliezza nell'antiretorica molto interessante, molto particolare, che andrebbe studiata ancora oggi, che invece è tutto uno strombazzare di violenza. Erano gli anni in cui nasce in realtà la retorica del lavoratore nella rappresentazione moderna, l'ultima fase. Sì, però qui è giocata con grande sottigliezza, cioè Mastroianni è ideologo ma è anche inadeguato, è stanco, un po' impacciato nel suo cercare di trascinare questi operai, però è accorato, siamo sempre all'impresa di cui parlavamo prima, è un Brancaleone in tono minore, assolutamente minoritario, mastroiannesco, però molto, molto dolce, ma molto determinato. Leggo le critiche su Wikipedia del tempo. Il dizionario Morandini critica le parti deboli, dove è evidente l'intenzione di creare un'atmosfera nazional popolare che tendono verso Edmondo De Amicis. Questo è esattamente il contrario a quello che hai detto te, mettetevi d'accordo. Io continuo a pensare che c'è sull'antiretorica, no, assolutamente. Pezzotta, Alberto Pezzotta sul Corriere della Sera lo definì un classico mancato. Perché c'era questo senso che mancasse qualcosa a questo film che entusiasma Sanzon? Ma io credo, poi c'è una fotografia di Rotunno incredibile, delle scene corali strepitose. Anche perché hanno argomenti tabù, se non li toccavi con i quattro quarti nobiltà di coscienza sociale non potevi toccarli. Diciamo, sì, forse dovevi stare sull'attualità, invece lui usa appunto, torno a ripetere, va all'elementare, le lotte elementari, quelle essenziali, e quindi fa un film che non è assolutamente datato oggi, ma è ancora parla, perché è pieno di personaggi. Sentiamo lui. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Io volevo ricordare, se fosse possibile, Monicelli per Il Marchese del Grillo, che è un grandissimo film e a differenza di Un Borghese piccolo che ti mette una tristezza incredibile, e invece un personaggio come Il Marchese del Grillo, un gaudente, uno che si vive la vita. Io penso che gli italiani siano più così che rispetto al personaggio triste di un borghese piccolo. Guardi Luigi, glielo facciamo sentire e poi lo commentiamo. No, è tutto bagnato, quello se ne accorge. Ieri sera qui c'è stata una bottega, il muro è fresco, un po' si vede. E non si deve vedere, se il padrone se ne accorge, è finito, che scherzo famo? No, ma quando si scherza bisogna essere seri. Fa sparire l'insegna, via. Mettete il pisciatore. Via, andatevene via, sparite. Oh, ma Oh, ma che stai, guarda. Ma questa è la bottega mia. No, intanto questa è bottega mia. Che guardi, zozzo? Te faccio arrestare, chiama i guardi, bussa via. Ma non è via dei banchi vecchi questa? Beh, a via dei banchi vecchi non si può pisciare in pace. E pisciano dove pare. Oh. Ma no, addosso al negozio mio. Giuseppe Sansonna. L'ascoltatore Luigi è rimasto colpito dal borghese, scusami, dal marchese del Grillo, che rappresenta gli italiani. Sì, rappresenta un'altra fetta, sì, d'Italia. Infatti, un'altra sfumatura, ma io non ci vedo frivolezza, ci vedo tutta la protervia grifagna della nobiltà papalina, quella feroce, sì, vitalistica, ma una vitalità disperata di fondo. Cioè, lui era l'anello debole, quello che va a giocare a dadi la notte in cui doveva fare la guardia a Castel Sant'Angelo, entrano i francesi e prendono il Papa. Certo, poi c'è uno strepitoso Papa che è Paolo Stoppa, che appunto, torniamo sempre allo spirito del Belli, c'è una ferocia di fondo, c'è una visione del romano che colta nella sua essenza. Io non trovo neanche questo, non è leggero, le cose vanno appunto osservate nei loro dettagli, nelle loro sfumature. Questi film erano ricchi di dettagli, ricchi di prospettive, insomma. Lui dimostra che il carbonaio suo sosia, ignorante, alcolizzato, rozzo, soltanto perché vestito da marchese del Grillo lo mette nel suo letto, il primo giorno che entra nel palazzo subito si fa la sorella, la moglie, non so bene chi è, se non ricordo bene chi, quindi sì, basta, sì. È il vestito che fa il marchese e soprattutto becca subito l'amministratore indegno e disonesto, quindi c'è tutta un'osservazione antropologica molto, molto acuta. Certo, sicuramente magari qua e là c'è qualcosa di sfumato, di consolatori, di ammiccante, però a ben guardare nell'essenza c'è il taglio, c'è il graffio, c'è. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. E io volevo portare un ricordo personale che ho, marginalissimo, che spero non si presti troppo a un'interpretazione melensa. Però quando no, io non avevo... si butti giù preventivamente, Giuseppe, a segarla facciamo sempre in tempo, lei no, abbia il coraggio, esatto, di esprimersi. Esatto, ha ragione. No, io volevo solo ricordare questo, io ho 28 anni, quando ne avevo una ventina, scrissi con un amico una sceneggiatura che poi realizzammo. E qual era il soggetto? Di cosa parlava? Il soggetto era la vicenda di questi tre ragazzi, di cui uno completamente disadattato, che cercavano di trovare un minimo di loro spazio in una dimensione completamente alienata, nel senso nessuno riusciva in quello che voleva fare, erano tutti abbastanza cinici sostanzialmente, ognuno a suo modo, e ce n'era uno che la faceva da padrone, un po', diciamo, tiranneggiando anche gli altri. E insomma era un po' l'epilogo di questo ragazzo, di questo giovane. In che anni era ambientato, per capire il contesto? Era ambientato nella contemporaneità, noi l'abbiamo girato nel 2003. Siamo vicini, ecco, adesso. Sì, puntava a raccontare una vicenda molto contemporanea, insomma, per l'interpretazione. Ma che noi avete girato, poi ve lo siete tenuti a casa vostra? Oppure? Sì, sostanzialmente abbiamo fatto girare per qualche festival, incontrando anche una buona risposta, però come ben lei sa non è facilissimo riuscire a... Ecco, diciamo, Monicelli, in tutto questo che parte ha avuto? In questo è una parte per me fondamentale, nel senso che io l'ho sempre adorato, per me era veramente il riferimento. Voi parlavate prima di leggerezza, per me lui era quello che riusciva a tenere congiunti temi gravi trattandoli con leggerezza e viceversa, e non lo dico con retorica, lo dico nel senso che secondo me Moretti non si rendeva conto che Monicelli poteva trasformare in un cavallo di Troia qualsiasi film facesse, di qualsiasi genere. E sulla base di questa stima che io avevo per lui e dell'altro mio amico, gli inviammo la sceneggiatura a casa, ovviamente certi che non ci avrebbe mai considerato. E una mattina, un pomeriggio, mi telefonò questo mio amico e mi disse: sai cosa è successo? È successo che io stamattina non ero a casa e mia madre ha ricevuto una telefonata di un signore che ha chiesto di richiamarlo, l'ho richiamato. Era Mario Monicelli. Aveva dato ascolto Monicelli. Aveva dato ascolto, aveva letto la sceneggiatura molto attentamente e al di là del giudizio che poi ne diede, che comunque era sostanzialmente positivo, ci sostenne e ci diede un suggerimento, ci diede vari suggerimenti. Cioè vi aiutò a girare il film in qualche maniera? Ma in verità lui non ci diede un tipo di supporto tecnico, però quello era una sceneggiatura abbastanza folta perché era una sessantina di pagine. E lui la lesse molto attentamente e volle parlare con noi per raccontarci cosa aveva ravvisato che funzionava e cosa no. Posso chiedere una cosa, Giuseppe? Sì, a quale altro big l'aveva mandata poi la sceneggiatura? Beh, guardi, io le posso, l'avevamo fatta girare un po', le posso raccontare il contraltare negativo? Sì. Così facciamo un po' di pettegolezzi. No, guardi, io nel paese, da, nel paese di provincia in cui sono nato e cresciuto, incontrai Zingaretti, che era venuto per partecipare a un evento. E Zingaretti l'attore o Zingaretti l'attore? No, no, l'attore, l'attore. No, è differente. Certo, è vero. E feci, insomma, per allungargli la sceneggiatura, per chiedergli un'opinione, lui non la vuole neanche prendere in mano. Non la vuole neanche prendere. Forse doveva cercare col fratello, che è un politico, e magari forse poteva dare un aiuto diverso. Magari... Lei dice che forse è meglio rivolgersi ai politici per un film. Beh, sa, che devo dirle, vista l'area, ma è sempre stato così, normalmente. E la saluto, la ringrazio, Giuseppe, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni dal traffico. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il piano Volpe Nera, che scatterà all'ora X, esattamente fra un'ora e 55 minuti. Un'ora e 54. Grazie. Si articola in due fasi. Fase A, incursioni compiute da piccoli gruppi scelti dirette ai gangli vitali, Rai TV, aeroporti, linee di telecomunicazione. L'incursione numero uno sarà attuata col nome convenzionale di Falcone. Io, con un pugno di miei barracuda spiucazzoni, avute le coordinate dal centro clandestino di Grotta Celata, ci paracaduteremo in dermare, nei fracci di Fiumicino. E approfittando del fattore sorpresa, in 14 minuti e 30 secondi vi impadronirete agevolmente dell'aeroporto Leonardo da Vinci e lancerete un razzo giallo per segnalare missione compiuta. 800240024, siamo arrivati agli anni 70 nel vedere l'occhio di Monicelli sugli italiani. Vogliamo i colonnelli, erano gli anni in cui si parlava di un possibile golpe reazionario, si guardava con occhio favorevole chi comunque questo si auspicava alla Grecia dei colonnelli, dove si rappresentava veramente quel modello di stato autoritario che noi abbiamo sempre paventato, ma abbiamo mai avuto fino in fondo, ma abbiamo conosciuto le prigioni, la tortura, l'eliminazione degli avversari politici sistematica. E Monicelli guarda quello che tutti naturalmente temevano, che in realtà c'è stato, con un occhio quasi compassionevole, ne vedeva veramente l'aspetto grottesco, l'aspetto impiegatizio, l'aspetto scalcagnato. Fu esattamente questo il golpe borghese: la guardia forestale che parte da Rieti e viene bloccata per strada, e gli altri vanno ad occupare la Rai, si fermano lì, qualcosa fra vecchi generali in pensione, fra antichi nostalgici, fra burocrati che pensavano ancora una volta di sfangare il loro problema quotidiano, di mettere assieme il pranzo con la cena. Fu questo veramente l'unico vero tentativo di colpo di Stato in Italia autoritario, e così lo vide appunto Monicelli. Sì, la citazione del golpe borghese quasi in tempo reale fatta da Monicelli, che richiama invece al mondo appunto scalcagnato e scalcinato di Alan Ford, cioè degli strepitosi, il grandissimo scrittore Giancarlo Fusco, che fa appunto questo colonnello Piras, che poi arriva a occupare la Rai e però la arriva a occupare fuori tempo, quando ormai le trasmissioni sono concluse, e spara profeticamente sul televisore pieno di rabbia e di frustrazione. Cioè c'è l'impossibilità, ancora una volta un consesso virile qui virato al negativo, alla demenza, alla follia, questa zattera di folli che va a cercare di sovvertire il paese in nome di un ordine. Ancora non vive le reliquie del fascismo reale e concreto, quindi vanno dal vecchio reduce che viveva ancora in una casa, mi ricordo, con un servitore che gli tingeva la faccia di nero perché lui pensava che fosse ancora un vecchio abissino, capito? In realtà era un qualsiasi domestico. Sì, poi c'era il cognato appunto che si era tenuto come domestico perché anche se era comunista, che poi in primo piano gli sputa nel caffè e gli porta il caffè a lui e a Tognazzi, poi qui c'è uno strepitoso Tognazzi che fa il mattatore nel film, che trascinerà a questo fallimentarissimo golpe tutta la sua banda di caratteristi. Fallito golpe in Italia, anche lui diventa un avventuriero in giro a proporre golpe in paesi africani. Sì, sì. Non avendo fallito quello in Italia, va a far fallire anche tentativi negli altri paesi. Marco, buongiorno. Buongiorno. Io volevo ricordare un piccolo episodio dei Soliti Ignoti, semplicissimo. È praticamente quando il vecchietto della banda, Capannelli, se non vado errato, va a cercare Renato Salvatori in periferia, incontra un gruppo di ragazzini a giocare e dice: conoscete uno che si chiama Mario? E i bambini sono 100. E lui: ma io, questo è uno che ruba. E i bambini ripetono: ma sempre 100 sono. È proprio il vi trae proprio lo spaccato della Roma periferica di quegli anni. È molto, secondo me, significativo. Anche ieri sera è stato riproposto da Sky questo film, e ogni volta che, almeno a me, io lo rivedo, sempre ritrovo dei piccoli particolari. Sì, sulla Rai c'era Marzullo che lo intervistava, qualcosa da scarnificarsi, sì, le gonadi da guardarlo. Sì. Marzullo è una figura da commedia monicelliana, che andrebbe irriso e scarnificato, però purtroppo Monicelli non c'è più. Eh no, perché lo invitava sottovoce lì, rispondeva alle sue interviste. Una strepitosa intervista a Ferreri che lo insultava, o Troisi che diceva: ma lei cosa sogna? Aveva chiesto a Troisi Marzullo, di non vederti mai più, aveva detto Troisi, proprio, era proprio accorato. Però Marzullo è una funzione necessaria, credimi, senza Marzullo non avremmo modo, lo rivaluteremo in passato, postumo, fra 2000 anni, sarà rivalutata l'Italia di Marzullo. Io ho lavorato insieme a lui, fece anche un programma in televisione insieme a Marzullo, quindi l'ho analizzato nei minimi particolari. Dico che è un altro delle porte di passaggio in cui vengono rivelati dei nostri aspetti che altrimenti rimarrebbero camuffati. Sono già passati 6 anni da allora. Oggi siamo in uno di quei momenti di depressione e di crisi, quelli che il povero Perozzi chiamava constatazione del nostro niente, e che Necchi invece dice che siamo 4 poveri mischeri. Insomma, in giorni come questi sarebbe meglio stare ognuno per conto suo, e invece si rimane insieme, anche se non abbiamo niente da dirci. Eppure cosa ci manca? Stiamo bene, la vita è sempre bella e il futuro è pieno di promesse. Gambrinus, il tempo delle fave. Eccelsior, il tempo dei finocchi. Odeo luminare, ma non ti vergogna la tua età e con la tua posizione. Un uomo del tuo valore fare con questo spirito da 4 soldi, eh? È proprio perché sono un uomo di valore che posso permettermi di fare il mischero. È la gente che non vale una sega come voi che non se lo può permettere. Perché te credi di valere? Ecco, Sanson, Amici miei segnò un'epoca. Io me lo ricordo. Amici miei ci fece ricordare, nel momento liminare in cui stavamo passando proprio dalla fanciullezza, adolescenza, all'età matura, che si poteva continuare a rimanere ragazzi in eterno. E nella provincia italiana ancora esistevano delle sacche di resistenza all'austerità, all'impegno che richiede l'età adulta. Sì, il consesso virile qui formato dall'aristocratico decaduto Tognazzi, dall'architetto Melandri Gastone Moschini, dal primario stentorio strepitoso Adolfo Celi, dal barista Montagnani, cerca di irridere la morte con lo scherzo continuo, lo scherzo boccaccesco, ma aleggia, qui lo sentiamo nella musica, aleggia sempre una malinconia di fondo. E l'impresa questa volta del consesso virile è quello di beffare la morte, beffare il tempo che trascorre. Gli uomini che cercano di intrappolare la morte sono sempre malinconici, sono sempre patetici, ma quelli che cercano di farlo comunque meritano gloria e rispetto, anche se lo fanno semplicemente raccontando la supercazzola al prete che viene a confessare. Infatti, il contrasto è commovente. Poi c'è Adolfo Celi, questa parte di primario sprezzante. Adolfo Celi è un altro titanico attore spesso dimenticato, che qui si erge stentoreo. Il capo della Spectre era anche. Sì, appunto, nemico di James Bond, conosciuto in tutto il mondo come nemico, cioè, di Sean Connery, di 007 e protagonista di Amici miei. Il primario Sassaroli, no? Che appunto abbandona pazienti che ha a cuore aperto per andare a fare l'ennesimo scherzo, per andare a tirare sulla torre di Pisa insieme a Tognazzi e compiti. Poi l'aristocratico decaduto, o quella scena terribile in cui Sassaroli, Celi, convince Haber che la donna che lui sta piangendo al cimitero in realtà era anche la sua amante, quindi lo aiuta terapeuticamente con questa feroce terapia antimorte. Sentiamo Ermanno proprio in conclusione. Ermanno, buongiorno. Ermanno, parlo da Carpi. Io ho visto quasi tutti i film di Monicelli, uno in particolare lo ricordo con molto interesse, che è La ragazza con la pistola. Abbiamo due personaggi che partono dal paesello completamente integrati sul loro territorio, vanno in un altro paese, in un'altra città, in un'altra nazione. Uno si integra completamente, piace il territorio, piace la mentalità, quell'altro completamente l'opposto. Ecco, questo è una parabola che va bene ai nostri giorni per certi politici che dicono integriamo, e poi dopo c'è chi lo fa e chi non lo fa. Oddio, lei ha colto l'aspetto più marginale di quel film fantastico in cui è una Monica Vitti ad andare a vendicare con la pistola un oltraggio d'amore, però ognuno c'ha il suo punto di vista. Sanson, chiudiamo. Sono contento che si sia ricordato la Vitti, che anche Monicelli voleva ricordare, che è una grandissima attrice. Che a Vitti è viva, ma è come se non lo fosse, perché è una zona d'ombra. Ormai è una zona d'ombra. Grazie Giuseppe Sanzonna, grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti. A domani.